Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Nanga Parbat, la montagna nuda in lingua urdu, un sogno bianco a forma di piramide ai confini dell'Himalaya. 8.125 metri di eleganza, ghiaccio e roccia. Un mito per gli alpinisti di tutto il mondo, una leggenda da inseguire come il Santo Graal o come Atlantide, una sorta di leggenda irraggiungibile e intramontabile. Con un'unica eccezione, il Nanga Parbat non è frutto della fantasia o delle leggende dei romanzi, è lì, concreto, duro, materiale. Oggi a Destini Incrociati racconteremo l'intreccio a distanza tra due dei più grandi alpinisti di tutti i tempi e una delle montagne più cattive del pianeta. Hermann Bull, scalatore austriaco, padre dell'alpinismo moderno. Reinhold Messner, alto atesino, il re degli 8000 e il terribile Nanga Parbat. Indossate picozze, ramponi e bombole. Oggi andiamo a 8000 metri. Nel 1934 un geografo, Richard Finsterwalder, si reca alle pendici del Nanga Parbat, scoperto un paio di decenni prima, per studiare la montagna. A colpire l'attenzione del geografo non è l'altezza, benché superiore agli 8000 metri. Ci sono 7000 metri di dislivello tra la cima del Nanga ricoperta di neve e il fiume Indo che scorre alle sue pendici. Sono pochissimi i luoghi della Terra in cui la natura si mostra agli uomini così grande e multiforme e rivela loro tanto dei suoi segreti e meraviglie. 7000 metri di dislivello, impressionante, unico nella catena himalayana. E in quei 7000 metri, strati di vegetazione diversi e paesaggi si avvicendano, dando l'impressione che davvero, salendo verso la cima e abbandonando i torridi deserti delle pendici, si possa salire dall'inferno verso il paradiso. Tra la fine degli anni 20 e gli anni 30 l'uomo in tutto il mondo decide di ribellarsi ai propri limiti e di superare le barriere geografiche e naturali che lo circondano, in tutte le direzioni, in verticale e in orizzontale. Sono gli anni in cui Alfredo Nobile prima sorvola il polo insieme a Roald Amundsen con il dirigibile N1 e poi si schianta sugli stessi ghiacci polari nella celebre tragedia del dirigibile Italia. Sono gli anni in cui Amelia Earhart compie la prima trasvolata oceanica in solitaria. Gli anni in cui Mallory e Irvine scompaiono sull'Everest nel tentativo di conquistare la vetta più alta del mondo. E nessuno saprà mai se ce l'hanno davvero fatta. Negli anni 30 l'alpinismo è ancora qualcosa di pionieristico, di sovrumano, portato avanti con pochezza di materiali e coraggio da leoni. In questo decennio vengono conquistate progressivamente tutte le più importanti vette delle Alpi, in una vera e propria competizione internazionale permeata di spirito nazionalistico. Le nazioni europee finanziano spedizioni costose e organizzatissime per piantare per prime le loro bandiere sulle cime dell'arco alpino. Quando la competizione si fa serrata, naturalmente, si comincia a guardare al resto del mondo, al tetto del mondo, all'Himalaya. Nanga Parbat, proprio in questi anni, impartisce le prime severissime lezioni. Uno dei più grandi alpinisti degli anni 30, Willy Merkel, guida una spedizione tedesca nel 1934. La spedizione arriva quasi nei pressi della cima. Quando il gruppo all'ultimo campo base è pronto all'assalto alla cima, si alza il vento, arriva la tormenta. Purtroppo, come potete sentire dalle terribili raffiche di vento, le condizioni della montagna peggiorano drammaticamente. La spedizione sta per trasformarsi in tragedia. Willy Merkel e altri quattro scalatori, insieme a sei Sherpa, perdono la vita. e la più grande tragedia dell'alpinismo fino a quel momento. Il Nanga Parbat ha lanciato un chiaro avvertimento a tutti. La storia che vi raccontiamo oggi è soprattutto una storia di fratelli. Fratelli alpinisti, compagni di scalate e di avventure, che la montagna nuda cerca di separare, disegnando i confini di una tragedia, ma alimentando al tempo stesso il desiderio di rivincita di questi uomini d'acciaio. Quando Willie Merkel muore sul Nanga Parbat nel 1934, a piangerlo c'è soprattutto suo fratello. Si chiama Karl Herlinghofer, è un alpinista e da questo momento il Nanga Parbat diventa la sua ossessione. Quando il 24 luglio del 1934 divenne certezza la morte di mio fratello, nella notte seguente, segnata dal dolore, giurai a me stesso di procurargli un sobrio monumento nel cuore di quelli che lo conoscevano. La meta chiama la gioventù degli scalatori a una nuova missione, la lotta per il Nanga Parbat, un nuovo assalto alla montagna, in modo che il lavoro pionieristico dei cinque eroi non sia stato inutile. Deve attendere quasi 20 anni, Herlinghofer, perché la sua sfida al Nanga Parbat possa essere sferrata. In mezzo c'è la guerra, le montagne diventano nuovamente campi di battaglia. Negli anni del conflitto, infatti, l'attività alpinistica internazionale praticamente si arresta. Alcuni dei più forti arrampicatori vengono reclutati nelle divisioni degli alpini. Combattono l'uno contro l'altro, scalatori che hanno affrontato insieme straordinarie avventure e che insieme torneranno a scalare alla fine del conflitto. Tra questi alpinisti c'è anche il nostro personaggio di oggi. È un uomo giovanissimo che vive il dramma della guerra e che poco dopo viene reclutato per la sfida al Nanga Parbat. Vive a Innsbruck e nel 1953 è il migliore alpinista del mondo. Il suo nome è Hermann Bull. Hermann Bull nasce a Innsbruck il 21 settembre 1924. Si forma sulle vette vicine alla città tirolese e dopo la Seconda Guerra Mondiale diventa uno specialista delle salite in solitaria. Da solo, infatti, conquista numerose vette dell'arco alpino, aprendo nuove straordinarie vie. Sul piano tecnico, Bull è uno dei più cristallini talenti dell'alpinismo di tutti i tempi. Istintivo, geniale, rapido, potente. A meno di 30 anni riesce in imprese impossibili per altri alpinisti. Insieme alla sua bravura cresce la sua ambizione. Bull sa di essere bravo e vuole raggiungere la gloria. L'alpinismo è un'attività sfiancante. Uno sale, sale, sale, sempre più in alto e non raggiunge mai la destinazione. Forse è questo l'aspetto più affascinante. Si è costantemente alla ricerca di qualcosa che non sarà mai raggiunto. Nel 1952 una delle sue imprese più straordinarie. Un sabato mattina di luglio, all'alba, sale sulla sua bicicletta. Parte da Innsbruck e si dirige verso la Val Bondasca, al confine tra la Svizzera e l'Italia. 180 chilometri. Arriva in serata e sale al rifugio Shora, dove si ferma per la notte. La mattina successiva parte per la parete nord-est del Pizzo Badile, dove Riccardo Cassin ha tracciato una via estrema che nel 1952 ha avuto ben poche ripetizioni, alcune tragiche. È una delle pareti più difficili al mondo. Alle 4 di domenica mattina, quando tutti ancora dormono, Bull parte da solo. Alle 6 è alla base della parete, alle 10:30 è in vetta. Un record spaventoso. Le cordate precedentemente riuscite nell'impresa avevano impiegato 4 giorni. Gli alpinisti che Bull incontra in cima al Badile, provenienti dal facile versante italiano, lo accolgono allibiti e increduli. You're unbelievable. You're so unbelievable. Sceso dal Badile, Hermann arriva alle 17 al rifugio e quindi giù in paese, dove risale sulla sua bicicletta per tornare a casa, affrontando i 180 chilometri di strada per arrivare a Innsbruck. Speravo che non succedesse qualche guaio alla bicicletta, altrimenti avrei dovuto proseguire a piedi. E beh, qualche guaio in effetti successe. All'improvviso, probabilmente per la stanchezza, cade nel fiume sottostante e batte la testa. L'acqua gelida lo sveglia, lo rianima. Sono le 4:30. Si mette la bicicletta in spalla e si incammina e si presenta regolarmente al lavoro qualche ora dopo. Questo è Hermann Bull. Herlinghofer non può certo fare a meno di lui quando progetta la conquista del Nanga Parbat. E così arriva la chiamata, come ricorda lo stesso scalatore austriaco. Il telegramma mi sorprende. Arriva ciò che ormai non speravo più di ricevere. Mi si invita a prendere parte alla spedizione. Beh, al colmo dell'entusiasmo accetto e fin dal primo giorno mi getto a capofitto nel lavoro preparatorio. Quasi ogni sera sono nell'ufficio della spedizione. Lì si preparano i bagagli, si mette in ordine, si scrive. Herling Hofer riesce nell'impresa di amalgamare con compattezza la squadra di alpinisti. Anche dei tipi bizzarri come Bull e come il regista di documentari Hans Hertel, convocato apposta per filmare l'impresa, riescono a inserirsi. A metà del giugno 1953, la spedizione è alla base del Nanga Parbat. Vengono preparati i campi base e approntato il piano per la salita. Gli alpinisti vengono divisi tra uomini di punta e retrovie. Bull naturalmente guida gli uomini di punta. Herling Hofer, da dietro, orchestra la regia. Vuole il controllo della situazione, vuole vendicare il fratello. Ma la montagna nuda non ci sta e inizia a difendersi, come ricorda lo stesso Herling Hofer. Dopo diversi giorni di duro lavoro alla base della montagna, arrivò una tormenta di neve, violentissima, che ci costrinse ad arretrare e a scendere. Ma il vero problema nei giorni successivi furono gli sbalzi di temperatura. Le condizioni continuavano a mutare. Era impossibile fare un piano sensato per l'attacco alla vetta. Dopo circa 15 giorni, decisi di rinunciare. Quando il capo spedizione annuncia la ritirata, Bull si trova a quota 6.900 metri, poco più di 1.000 metri dalla vetta. Ancora 6 chilometri di cammino nei ghiacci. Non è tipo da rinunce, Herman. Avevo la sensazione che Herling Hofer avesse dato vita ad una spedizione troppo grande, mastodontica, e tentavamo di suggerirgli delle cose, ma non voleva ascoltarci. Io prediligo di gran lunga le azioni rapide, agili, compatte. Quella non lo era di certo. Questo è il motivo che fa di Bull il capostipite dell'alpinismo moderno. Anche sugli 8.000, sostiene, è preferibile un'azione rapida e secca ad elaborate e complesse spedizioni. Con questa motivazione, quindi, e spinto anche dall'ambizione, il 3 luglio 1953 Herman Bull parte. Parte dall'ultimo campo base, verso la cima, verso l'impresa. Un'impresa folle, straordinaria, come racconta il nostro secondo personaggio di oggi, un uomo che proprio con questa cavalcata solitaria intreccerà il proprio destino, il grande Reinhold Messner. Quella di Bull era la marcia di un uomo ossessionato da un'idea che avrebbe potuto portarlo quasi sicuramente alla rovina. La solitaria era un'impresa straordinaria e contraria ad ogni ragionevolezza alpinistica ed era verosimilmente condannata a fallire. Bull però non fallisce. È una marcia lunghissima, interminabile. L'alpinista austriaco parte alle 2 di notte, attraversa i canaloni e le creste della terribile montagna nuda. All'inizio il suo passo è svelto e deciso, spinto dall'ambizione e dalla determinazione. Progressivamente però subentra la sofferenza, la tremenda fatica. Ogni passo pesa tonnellate e si misura in pochi centimetri. Questa ascesa alla vetta mi appariva totalmente irreale. È come un sogno che non si può afferrare, così inconcepibile, eppure così presente. Bull abbandona lo zaino per essere più leggero. Arriva sullo spallone che conduce alla vetta alle 6 del pomeriggio. È distrutto, è l'ombra di se stesso. In cima arriva qualche ora dopo, al tramonto. Sempre Messner commenta così il suo arrivo alla cima. Finalmente non c'era più da salire. Era sulla cima, sul punto più alto. No, Bull non ha coscienza del significato del suo essere lì. È solo felice di essere in cima e che le fatiche siano passate. Per il momento, almeno. Quello che segue per Bull è connotato da grande amarezza. Non solo la terribile fatica della discesa, ma il fantasma dell'invidia e dell'ingratitudine. Lo racconteremo tra un po'. A noi ora interessa fare un piccolo salto spazio-temporale. Andiamo in Val di Funes, in Alto Adige, tra Bolzano e Bressanone, ai piedi delle meravigliose Odle. Qui due fratelli che sono nati tra questi monti giocano e scalano le prime montagne e sognano. Sognano di diventare alpinisti, sognano di eguagliare Herman Bull e di seguire le sue orme sul Nanga Parbat. Avranno la possibilità di farlo. Si chiamano Günther e Reinhold Messner. An empty rocking chair, knitting basket by the table, a setting sun casting shadows on old hands no longer able, a faded silhouette, she starts to cry, and just outside her window, cars are passing by. Destini incrociati. Oggi Destini Incrociati racconta un incontro a distanza. Una distanza spazio-temporale che la passione e il coraggio annullano. Il Nanga Parbat, la montagna nuda, è il fulcro e il perno di questo incontro. Da un lato, nel 1953, la grande impresa di Hermann Bull, che in solitaria e senza attrezzatura, raggiunge la vetta, contravvenendo agli ordini del suo capo spedizione. Dall'altro, Reinhold Messner e suo fratello Gunther, pronti a seguire le sue orme negli anni 70. In montagna più che altro è importante conoscere i propri limiti. Conosciamo meglio quando ci vediamo davanti all'impossibile. Quando Reinhold Messner è solo un ragazzino, sa che Hermann Bull, in quel 3 luglio del 1953, si è spinto così vicino al proprio limite da non vederne più il confine. L'impresa del Nanga Parbat fa il giro del mondo e impressiona soprattutto per la modalità con cui è avvenuta, compiuta dalla caparbietà e dall'ostinazione di un uomo indistruttibile. Ma c'è qualcuno pronto a mettere in discussione l'impresa di Hermann Bull. La discesa della vetta del Nanga per Bull non è più un fatto sportivo, è questione di pura sopravvivenza. Senza Piccozza, che ha lasciato piantato sulla vetta, senza forze, senza energie, con il solo supporto dei suoi bastoncini da sci, Hermann scende. Ma a 8.000 metri di quota si fa buio, si fa notte. Mi dovevo fermare per la notte. Ho improvvisato un bivacco, un terrazzino tra le rocce. Avevo il busto appoggiato alla parete e mi sono messo lì, rannicchiato. Non avevo sacco a pelo, né zaino, né corda. Aspettavo la luna per riprendere la discesa. La luna sorge e verso le 4 Bull riprende la discesa. Durerà altre 13 ore, 13 lunghissime ore vissute tra allucinazioni, visioni, attimi di scoramento. Alle 17 Bull arriva dai suoi due compagni. Viene soccorso, si rifocilla, dorme. I compagni lo ristorano. E lui racconta di quell'impresa portata avanti da solo. Non si rende conto che gli manca un dettaglio fondamentale: le prove. Herling Koffer accoglie in maniera fredda e composta Bull e il capo spedizione. Aveva un conto aperto con il Nanga Parbat, per lui la rivincita sarebbe dovuta avvenire attraverso l'attuazione di un suo piano preciso. Anche lui cercava la gloria. La montagna, invece, è capitolata per l'iniziativa di un uomo solitario e questo non lo accetta. È l'unico portavoce della spedizione e la versione definitiva sarà la sua. Ammesso che Hermann Bull abbia effettivamente raggiunto la vetta, e dico ammesso che l'abbia fatto, va detto che sul Nanga Parbat la squadra alpinistica tedesca è stata sconfitta. L'impresa non è riuscita e la conquista della montagna è rimandata. Per Bull è una delusione cocente. La sua impresa viene messa in dubbio, screditata. Herling Koffer fa passare la solitaria di Bull come l'atteggiamento egoista di un individualista. Scrive anche un libro in cui si parla di successo collettivo e si sorvola sul dato più importante, la conquista effettiva della vetta da parte di Bull. E si chiude in un doloroso silenzio. Chi vuole verificare può andare a controllare. Lassù, in cima al Nanga, c'è la sua Piccozza, c'è la sua firma. Due ragazzini della Val di Funes, questa storia è quanto di più affascinante ci possa essere. Gunther e Reinhold, in breve, ricevono nuovo carburante per le loro imprese future. Prima un episodio domestico. Reinhold trova il fratello minore Gunther in casa, in un angolo, che piange. Il padre l'ha picchiato selvaggiamente col guinzaglio del cane. Quel giorno non diventammo solo amici. Gunther divenne anche il mio compagno di cordata e ben presto imparò a scalare come me. Cominciamo a parlare insieme di evasioni e vedevamo nelle nostre gite delle brevi fughe. Volevamo andare lontano, lontano da un padre autoritario, dalle ingiustizie di questo mondo. Nello stesso anno, su una cima himalayana che si chiama Broad Peak, Hermann Bull muore. Dopo averla raggiunta, infatti, lo scalatore tirolese decide di dare l'ennesima dimostrazione della propria forza, salendo subito su un'altra vetta, il Ciogolisa. Sulla cresta che separa i due monti arriva una tormenta di neve, scivola nel baratro. Il suo corpo non verrà più ritrovato. L'ombra scura del Nanga Parbat si è vendicata di chi ha osato profanare la montagna nuda. Per Gunther e Reinhold la scelta diventa scontata. Ripetere le imprese di Bull, trovare la sua piccozza in cima al monte. Devono attendere 13 anni, 13 anni di grandi imprese sulle Alpi e nel mondo. Nel 1970, ironia della sorte, a convocarli per una spedizione è proprio Herlinghofer. Li vuole con sé in una spedizione alpinistica in stile Bull, agile e veloce. La scena alpinistica era allora dominata dalla competizione fra le diverse cordate e dalla disponibilità a rischiare. Esattamente come gli altri, anche noi eravamo impegnati a mettere in pratica le idee più folli, a progettare nuove vie. Per noi la questione non era tanto il raggiungimento del maggior numero possibile di vette, quanto il modo, perché il riconoscimento nella ristretta elite di scalatori estremi era ottenuto solo da chi faceva le cose più dure e pericolose. Il nostro stile era determinato dal minimalismo dell'equipaggiamento e dall'arditezza della meta. La parete Rupal del Nanga Parbat, con il suo marchio di non plus ultra, divenne per la nostra generazione di alpinisti una sfida che si poteva a malapena immaginare. Inizialmente l'invito arriva solo a Reinhold. Gunther si sente messo da parte. Poi il destino bussa alla porta del fratello minore. In una lettera del 14 dicembre 1969, il dottor Karl Maria Herlinghofer mi comunica che Sepp Maierl, un altro alpinista della spedizione, si è deciso per un'altra scalata. In aggiunta dice: «Mi puoi indicare un sostituto?» Penso subito a Gunther. Due settimane dopo metto un telegramma per lui sotto l'albero di Natale. C'è scritto: «Sono d'accordo per Gunther», firmato Karl. Per i due fratelli Messner il sogno diventa realtà. La mitica parete Rupal del Nanga Parbat. Gunther è un impiegato di banca, Reinhold un insegnante in una scuola media. Continuavamo a raccontarci della montagna, pensavamo a lei, l'avevamo sognata. Quando apparvero le prime notizie sul giornale, i miei scolari appesero un disegno alla parete. C'era scritto: «I ragazzi Messner al Nanga Parbat». La squadra raggiunge il Pakistan alla fine di aprile del 1970. 16 alpinisti di lingua tedesca, guidati dal medico Karl Herlinghofer, che con il Nanga ha un conto aperto. Ha perso suo fratello nel 1934. Ha perso la gloria nel 1953, quando Bull raggiunge la vetta in solitaria. Forse nessuno ne ha le prove. I 16 alpinisti devono salire su una vetta che potrebbe anche essere vergine. Tra poco, ad alta quota, a destini incrociati. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati si raccontano le vite di Hermann Bull e Reinhold Messner, probabilmente i più grandi alpinisti di tutti i tempi nel severo confronto con il Nanga Parbat, la montagna più difficile del mondo, con la sua terribile parete Rupal, 7000 metri di strapiombo. Bull ha conquistato la vetta nel 1953, da solo, con un'impresa eccezionale, un'impresa in cui ci sono dei dubbi, non ha le prove, ma lassù ha lasciato la sua piccozza. Messner, che è diventato alpinista proprio grazie alle imprese di Bull, parte per la montagna nuda. Questo è il significato del suo nome, per la gloria. E per quella del suo modello Bull, di cui spera di ritrovare la piccozza. Con lui c'è il fratello, Gunther Messner. Per quasi un mese i fratelli Messner stazionano alle pendici della parete Rupal. Attrezzano i campi, salgono e scendono, colpiti anche da una raffica di bufere di neve. Emergono anche i limiti della leadership di Herlinghofer, i cui piani per la vetta sono tutt'altro che chiari. Per ingannare il tempo, Gunther e Reinhold, durante un momento di riposo e di attesa, scalano un 6000, Bleran Pak, ancora inesplorato. Herlinghofer non gradisce l'escursione. Il suo ego, il suo desiderio di gloria, riemerge come ai vecchi tempi. L'accoglienza al campo base è stata fredda, come se avessimo fatto qualcosa di proibito, come se avessimo infranto qualche regola. Pochi giorni dopo, il gruppo di scalatori tenta l'assalto alla vetta. In base al piano di Herlinghofer, sono in tre a doverla attaccare: Reinhold Messner, suo fratello Gunther e Felix Kuhn. A causa del brutto tempo, viene presa una decisione repentina. Come 17 anni prima, ma questa volta con il consenso di Herlinghofer, Reinhold tenterà da solo. un tentativo lampo. Dall'ultimo campo base, dove gli altri due rimarranno in appoggio, una salita fulminea sulla vetta. Pensavo che sarebbe stata la scalata più difficile della mia vita. Poi ho trovato il mio ritmo e mi sentivo sicuro, come sempre durante le scalate. Mi sentivo sicuro come se fossi stato su una delle vie delle Alpi. Improvvisamente, arrivato oltre il difficile canalone Merkel, rimasi sorpreso. Stava salendo qualcuno. Era Gunther. Aveva salito in meno di 4 ore tutto il canalone. Apparteniamo uno all'altro, pensavo, e presto saremo in vetta. Accanto a loro sicuramente lo spirito di Hermann Bull, che li spinge tra le difficoltà. Improvvisamente, infatti, il caldo. Un caldo impensabile per un 8000. I passi rallentano, aumenta la fatica e con essa anche la sete. Percezioni al rallentatore, lentezza dei riflessi, dei pensieri, dei movimenti. I due fratelli raggiungono la cima in un clima irreale. Si sono prodotti in una performance incredibile. Sono lontani dal mondo, lontani dalla civiltà. And I wait for paradise. And I wait for paradise. I due fratelli Messner sono lontani. Per loro, la conquista della vetta insieme ha un sapore particolare. Ancora oggi, il fatto che Gunther fosse lì mi rende particolarmente preziosi quei momenti sulla vetta. Nonostante la routine quotidiana, nel ricordo quei momenti sono rimasti belli. Vedo sempre gli occhi di Gunther, come allora. I due si guardano intorno. Di Hermann Bull non c'è più traccia. Quella piccozza che avrebbe potuto dare prova della sua salita è stata spazzata via dalla tempesta. Tuttavia, c'è qualcosa di più profondo a confermare la salita. Bull aveva descritto in un libro la forma della cima del Nanga e il panorama mozzafiato che da essa si gode. Le descrizioni di alcuni particolari della vetta che l'alpinista di Innsbruck aveva dato, in particolare la disposizione di alcune cornici di ghiaccio rispetto ai punti cardinali, coincidono perfettamente. Non c'è dubbio che la montagna nuda sia stata già violata dallo straordinario Hermann Bull, l'uomo che aveva spinto i fratelli Messner all'alpinismo e li ha spinti fin quassù. Quello che i fratelli non sanno, però, è che il Nanga Parbat esige sempre un tributo e che anche loro lo stanno per pagare. Scendemmo molto lentamente dalla vetta. Gunther mi appariva molto stanco. Penso si facessero sentire gli effetti della sua scalata nel canalone Merkel. Non si poteva dire se e quando sarebbe crollato. La discesa del Nanga è un calvario. I due non possono rifare la stessa via della salita perché Gunther non è in condizione. Improvvisano, tracciano una nuova via. Rallentano progressivamente. Sono costretti a bivaccare per la notte a 40 gradi sotto zero. Gunther va in ipotermia, ha le allucinazioni. Quello che succede dopo è tra le pagine più tristi e controverse della storia dell'alpinismo. I due provano a scendere dal cosiddetto versante Daimir, che ritengono più facile. Sono in condizioni drammatiche. A metà della discesa, Gunther viene travolto da una slavina e scompare. Reinhold riesce ad arrivare a valle. Gli devono amputare 7 dita dei piedi, ma non è questa la ferita più grave. Ha perso il fratello. E le velenose polemiche del solito Herlinghofer, che avevano colpito anni prima anche l'idolo Bull, colpiscono anche lui. Herlinghofer lo accusa di avere causato la morte del fratello per la sua ambizione, di non averlo soccorso, di averlo abbandonato sulla parete per potersi salvare. Altri due componenti della spedizione, Max von Kinlin e Hans Ahle, che avevano avvistato i due in discesa, pubblicano in seguito un libro in cui sostengono che Reinhold abbia fatto scendere il fratello dalla difficile parete Rupal, riservando per sé la più facile discesa dal versante di Amir, per poter in seguito affermare di essere stato il primo a scendere in solitaria per quel versante. Una recente spedizione ha dimostrato come i fatti siano andati diversamente. Il corpo di mio fratello è infatti stato ritrovato alla base della via Daimir, dove abbiamo tentato di scendere insieme. È stata un'esperienza tremenda, soprattutto per i veleni che sono venuti dopo, che mi hanno spinto a ragionare sempre di più nell'ottica delle imprese solitarie. La montagna nuda esige sempre il suo scotto da pagare, severo, crudele. Solo un anno fa, anche Karl Unterkircher, uno dei più grandi alpinisti dei nostri tempi, è scomparso proprio lassù. L'ennesimo tributo di sangue di questa impressionante parete che separa con 7.000 metri di roccia l'inferno dal paradiso. Messner e Bull, entrambi calunniati da Herlinghofer, dopo aver raggiunto il Nanga Parbat, entrambi non creduti, entrambi autori di una grande impresa, sono riusciti a domarne la maledizione, pagando un prezzo salatissimo. Idealmente, su quella cima, è bello immaginarli insieme, fianco a fianco. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.